Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, lo è certamente per Milan e Roma che hanno centrato il loro obiettivo. Vedremo poi se la serata sarà altrettanto buona per l'Inter, chiamata a misurarsi col Twente, a vincere. Forse non è nemmeno necessaria, così necessaria la vittoria, ma insomma lo è per la classifica del girone, relativamente lo è soprattutto per il momento che l'Inter sta attraversando. Certamente non è un buon pomeriggio per il calcio europeo, alle prese con una murignata che stavolta ha davvero passato il segno e di cui parleremo nel dettaglio più tardi, quando ci collegheremo con il nostro ministro degli esteri Fabio Tavelli, che tra l'altro è stato il primo ieri sera dagli schermi di Sky Sport 24 a lanciare questo caso. Non che si sarebbe lanciato da solo, per carità, però insomma, a dargli la giusta rilevanza sin dal primo istante, perché ieri sera è successa ad Amsterdam una cosa di una antisportività, credo che abbia pochissimi precedenti nella storia del calcio e su cui l'UEFA ha già cominciato ad indagare. Molti di voi hanno già mandato messaggi su questo argomento. Ripeto, andiamo per capitoli. E quindi cominciamo dal calcio italiano e dalle sue vittorie di ieri sera, anche se tutti questi trionfalismi, in particolare quelli romani, io li condivido poi fino ad un certo punto, e andando avanti e ascoltando anche i vostri interventi in diretta vedremo perché. Partiamo dal commento di Ranieri su questa grande, oggettivamente grande, rimonta giallorossa. Era importante fare punti stasera, ne volevamo far tre contro la vice campione d'Europa, non era una partita facile e si era complicata notevolmente nel primo tempo. Poi però i ragazzi sono stati magnifici, hanno corso, hanno lottato, hanno aiutati dal pubblico, che è stato veramente meraviglioso, e credo che sia una gran bella soddisfazione per loro. La squadra sta in un momento buono, no? Noi stavamo giocando con il rombo in campionato e stavamo facendo molto bene, l'avevamo fatto anche in Champions League, eravamo andati bene, avevamo preparato questa partita e avevo detto, dico, occhio, perché quando entrano nelle fasce dobbiamo prestarli bene, perché sennò poi li fanno girare palla e i tre centrocampisti ballano, perché abbiamo un uomo in meno a questo punto. Per cui quando ci siamo disuniti, eravamo lunghi e non andava bene, per cui la palla ce l'avevano sempre loro e noi facevamo un po' la fine del topo, girando, ma non riuscendo mai a prendere il bandolo della matassa. E commettendo poi anche qualche errore grave individuale nella propria area. Uno dei gol nasce da un disimpegno sbagliato di Menez, un passaggio in orizzontale all'interno dell'area, poi De Rossi non è pronto su quel, si fa trovare un po' impreparato, era accaduto già al Mondiale, una cosa più o meno di quel genere, anche se non identico nella dinamica, ma insomma la Roma ha commesso fior di errori contro un Bayern, ecco il motivo della perplessità, contro un Bayern che per carità ha onorato la partita, l'impegno, ha giocato con grande correttezza sportiva, a differenza di altri per l'appunto, ma insomma, al di là di qualche assenza, e basterebbe Schweinsteiger su tutti per dare un'idea di quanto il Bayern poi in fondo tenesse, no? Di quanto pesasse per il Bayern questa partita, ciò nonostante è andato sul 2-0, se l'arbitro è attento c'è pure un rigore per il Bayern alla fine del primo tempo, a quel punto la Roma si sarebbe giocata davvero una qualificazione sbagliando tante cose, a parer mio sbagliando anche la formazione di partenza, perché l'inferiorità iniziale della Roma è nata, sempre a parer mio, dalla incapacità di organizzare gioco da metà campo in avanti, e quindi dal fatto di perdere in continuazione questa palla e di farli salire proprio per l'incapacità di costruire. In altre parole, io credo che il Totti di questo momento ieri sera fosse abbastanza imprescindibile, e visto che era sano e lo si è capito alla fine, a maggior ragione secondo me lo era. Torniamoci subito sulla Roma, perché tra le note positive certamente c'è la grande partita di Boriello. Boriello è stato protagonista per la Roma ieri sera almeno quanto Ibrahimovic lo è stato per il Milan ad Amsterdam, e lo è in questo periodo per la profondità che ha dato, per come si è battuto su ogni pallone, per come è stato decisivo, conquistando il rigore decisivo con un ultimo scatto su cui non era facile esibirsi a quel punto della partita, dopo già tutti gli allunghi fatti sino a quel momento, ma soprattutto con un con un gol splendido per riflessi, per acrobazia, quello che ha riaperto la partita a inizio secondo tempo. Borriello. C'è stata una reazione d'orgoglio nel secondo tempo mostruosa, anche grazie all'aiuto del pubblico che questa sera è stato veramente incredibile, non ho mai visto un pubblico del genere. Siamo stati bravi noi a riaprire subito la partita, poi si è creato quell'entusiasmo giusto e alla fine abbiamo portato a casa una vittoria meritata che ci consente di sperare di passare il turno. Diciamo che al Milan si giocava un calcio diverso che esaltava i due esterni che erano Padre e Ronaldinho, diciamo che io facevo un po' il lavoro sporco e venivo un po' penalizzato. Quest'anno alla Roma, ecco, vengo cercato un pochino di più, soprattutto con palli in verticali. Era interessante questo passaggio anche perché nel frattempo il Milan ha completamente cambiato modo di giocare e oggi gioca su Ibrahimovic come sarebbe piaciuto a Borriello che giocasse su di lui. Poi esserne o meno all'altezza magari è un altro discorso, o forse anche senza magari, però è vero che oggi il Milan gioca un altro calcio, gioca un calcio estremamente realistico. Ieri sera ho contato, credo nel solo primo tempo, 6 o 7 rinvii in tribuna, ma volontari, proprio direttamente, palla messa fuori o palla messa in tribuna per non rischiare, no? Questo non è da Milan, ma non è una critica, è semplicemente una constatazione. Il Milan storicamente, tradizionalmente, ha sempre cercato di giocare. Mi pare che questa nuova versione operaia, no, della squadra, che poi bisognerà vedere quanto piacerà il giorno che non dovesse più vincere, bisognerà vedere quanto piacerà al suo mentore, insomma, lo ha cambiato, insomma, lo sta cambiando. Poi, per carità, lo spirito di sacrificio collettivo è certamente l'ideale. Per esempio, un giocatore che altrove, sia nei club che in nazionale brasiliana, raramente ho visto sacrificarsi così, e forse mai, è Robinho, al di là poi della qualità che riesce a mettere nelle giocate, forse perché si impegna troppo, ma che si impegni tanto non c'è dubbio. Questo significa che l'ambiente c'è, che la squadra ha imboccato una sua strada, esteticamente è una strada molto diversa da quella a cui il Milan ci aveva abituati, e non è detto che sia, un difetto, è questo. Potrebbe semplicemente produrre, come dire, dei confronti d'opinione magari anche accesi, andando avanti il giorno che le vittorie non dovessero arrivare. Per il momento arrivano, sentiamo Allegri. La squadra ha fatto una buona partita, ha concesso poco e niente, abbiamo creato diverse occasioni al gol, abbiamo creato anche dei presupposti per sfruttare meglio alcune soluzioni offensive e credo che sia una vittoria meritata e sono contento per il passaggio del turno anticipato. La squadra anche nel primo tempo è stata molto quadrata, abbiamo avuto due o tre situazioni favorevoli, quella di Gattuso, un'altra di Seedorf, e credo che alla fine l'importante era vincere e sperare che Real Madrid vincesse ad Amsterdam, questo è successo. È una cosa molto importante. E questa era l'opinione di Allegri. Io sentirei ancora, e poi passiamo nella seconda parte ai vostri interventi e poi a quello di Fabio Tavelli che introdurrà il cambio di capitolo. Sentiamo ancora il commento di Ibrahimovic, una volta di più decisivo nella vittoria milanista. Abbiamo provato tutta la partita, era una partita difficile, campo difficile, poi avversario hanno fatto bene, ha giocato bene, aggressivo, ma al fine vinciamo 0-2, Rooney ha fatto un gran gol, la squadra ha fatto bene, adesso possiamo rilassare un po' per l'ultima partita, è una buona partita, importante. Ogni partita che va inventiamo più forte, chi contriamo diventa difficile per loro, noi giochiamo il nostro gioco e chi arriva vinciamo. Beh, insomma, poi ne riparleremo a febbraio di questo, perché il Milan ha fatto il massimo, si è qualificato con una giornata d'anticipo, avrà per l'appunto un turno di riposo addirittura in Coppa ed è preziosissimo in questo periodo, però poi è secondo dietro al Real, quindi beccherà nel sorteggio una squadra con ogni probabilità più forte, a meno che lo Shakhtar non vinca davvero il Girona davanti all'Arsenal, ma insomma sono casistiche di cui poi si parlerà più avanti. Per il momento sentiamo come va sulle strade. Michele da Pesaro scrive ad Allegri: va bene che Berlusconi ieri sera ha guardato Ballarò e non la partita. Non, è una battuta, è anche gradevole, mi sembra molto civile e non si presta a considerazioni accessorie. Di segno non calcistico. Calcisticamente io penso che sia azzeccata la battuta, ma che nasconda anche una verità, nel senso che Allegri ha imboccato una strada che certamente non è la strada della, non dico politica, ma della filosofia societaria. Fino a che i risultati lo supportano, ha certamente ragione lui. Il giorno che i risultati dovessero cominciare a mancare, qualche correzione di rotta credo diventerebbe obbligatoria, perché un Milan così operaio non può piacere, ripeto, alla filosofia societaria, ma anche alla tradizione del Milan. Bisogna vincere, giocando così bisogna vincere. Fabio Massa Carrara, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, io volevo disquisire con lei sul fatto che, anche tuttora l'ha detto, che il Milan è una squadra operaia e non merita di giocare in Europa, merita di essere in testa della classifica e merita di essersi qualificato dopo sole 5 giornate anziché 6, quindi questo da una parte. Certo, ieri però lei ha detto che sicuramente non è ai livelli del Barcellona e del Real Madrid. Io sono convinto che questo Milan oggi è più forte del Barcellona e del Real Madrid, proprio per il fatto che è una squadra operaia, a differenza del Barcellona e del Real Madrid, che sono squadre che se non viene a mancare il gioco, al momento in cui viene a mancare il gioco, praticamente vanno in palla, vanno in tilt. Il Milan ora, come ha citato prima lei ieri sera, non bada al pallone che arriva, lo butta in tribuna, quindi è un po' più operativa come squadra. Riuscirà, secondo il mio parere, ad andare avanti molto. Fabio, lei, io le lascio la sua fiducia e mi compiaccio. Sentir dire che il Milan attuale è più forte del Real Madrid e del Barcellona, vedo degli occhi milanisti di là dal vetro della cabina di regia che si stanno levando al cielo, insomma. Però è una questione di opinioni e le opinioni sono sacre. Filippo, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, senta, io volevo una sua opinione. Io pensavo, secondo lei, l'anno scorso l'Inter con Ibrahimovic nella rosa dell'Inter via il posto di Milito e Eto'o, secondo lei avrebbe vinto lo stesso la Champions League? Filippo, queste sono proprio, spostiamoci al bar e poi stanziamo un determinato periodo di tempo e un certo numero di consumazioni, poi magari quelle le concordiamo a parte e non arriveremmo in ogni caso mai da alcuna parte, perché non c'è controprova nella vita. Si immagini se c'è in un gioco come il calcio, che è legato a tutte le variabili che non conosciamo nemmeno tutte quante, per l'appunto. Io so che il Barcellona con Ibrahimovic ha avuto in Ibrahimovic il tallone d'Achille nella doppia sfida con l'Inter. Questo sì, perché ce lo ricordiamo tutti. Tant'è vero che insomma, Ibrahimovic è stato ceduto dal Barça proprio per aver fallito in ambito europeo, non tanto in campionato dove non è stato determinante, ma il suo posto l'ha comunque tenuto. La domanda che lei pone è assurda, non c'è risposta, nel senso che ne vale una qualunque, insomma. Da Vicenza in linea Roberto, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Da milanista di lunga data, allegramente anti-berlusconiano, devo dire che Allegri è proprio bravo. Secondo me ha ascoltato Berlusconi per i primi 15 giorni e poi ha fatto la squadra che voleva lui, con quel poco, perché non è tantissimo, che aveva, i tre mediani, tutte queste cose, Ibrahimovic collocato come era nella vecchia Inter, per cui vedremo un Milan bruttino, meno bello di quello di Sacchi, ma questo è bravo. È bravo sicuro e soprattutto appunto è coraggioso, ha il coraggio delle sue scelte, se non altro, no? Delle sue opinioni, e di conseguenza poi dopo le opinioni vengono le scelte, lui le ha fatte e sono scelte estremamente realistiche, perlomeno in questo momento. Poi io non escludo che il giorno che questo modulo è assimilato e tutti hanno capito, anche non solo i Gattuso e gli Ambrosini che l'hanno capito da sempre, ma anche quelli dotati di maggior talento, di piedi più raffinati, quando tutti avranno capito che si gioca innanzitutto a servizio della squadra e poi eventualmente per la propria vetrina, ma non escludo poi dei recuperi di altri giocatori di gran nome, ma al momento l'operazione è quella. E ripeto, ieri sera mi ha molto colpito quei palloni in tribuna, proprio perché sono la spia del senso pratico, no? Da una parte, e dall'altro della rinuncia all'estetica, che è sempre stata una cifra distintiva del Milan, ma risalgo indietro nei decenni, non soltanto nell'ultimo lungo e grande ciclo. Da Torino in linea Giovanni, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Tre domande velocissime. Allora, uno riguardo ieri sera, l'ho sentita dire una frase: ho vinto, abbiamo pareggiato, hanno perso, non ho capito bene chi è che l'aveva detta. Beh, io ricordo chi l'aveva detta, un allenatore che non c'è più e non ha molta importanza. Questo è il modo di rendersi protagonisti degli allenatori. C'era un allenatore in passato che diceva, parlando di un risultato ottenuto dalla sua squadra, diceva: ho vinto quando vincevano, abbiamo pareggiato quando pareggiavano, hanno perso quando perdevano, no? Non so se il riferimento era a un allenatore attuale che non è più in Italia al momento. Ho capito. Le altre due domande sono: una, qualche parola su Menez, che giorno dopo giorno mi sa che sta crescendo sto ragazzo, e io da romanista penso che ci toglieremo qualche soddisfazioncina in più. Grande talento, l'ha dimostrato anche ieri sera per l'ennesima volta, grande talento da metà campo in avanti, da metà campo all'indietro per il momento fa solo danni, ma danni gravi, come ha fatto ieri sera nel primo tempo con quel passaggio orizzontale a De Rossi, che è stato colto di sorpresa, ma non può aspettarsi una fesseria del genere a quel punto della partita, e quindi la colpa di De Rossi è molto molto relativa. Quella di Menez è grave, dopodiché le qualità di Menez negli ultimi quattro giorni sono venute, sono lì da vedere, insomma. Sì. Terza e l'ultima che volevo sentire era su Totti. Lei prima diceva che un Totti così come in quest'ultimo tempo serviva forse dall'inizio. Si è sempre parlato appunto di Totti, di Del Piero, giocatori che sono, non dico alla fine carriera, ma ormai la porta la vedono vicina, di farli giocare, di mettersi nell'ottica che comunque dovrebbero giocare quegli ultimi minuti, perché appunto quel poco che hanno possono darlo al massimo in quegli ultimi minuti, come ha fatto appunto ieri Totti. Questo è un altro discorso, cioè che i Totti, Del Piero, eccetera, debbano accettare un ruolo ormai marginale, se non altro dal punto di vista dei minuti, è inevitabile ed è una scelta di maturità da parte loro accettarla. Nel caso di ieri sera, io dopo aver visto il Totti che ha giocato contro l'Udinese sabato, dovendo decidere, ma queste sono opinioni, torniamo di nuovo al Bar Sport e decidiamo le consumazioni, perché Ranieri ha ben altri parametri rispetto a quelli che possiamo avere noi davanti alla TV. Non potendo giocare tre partite in una settimana, io quella di ieri sera gliela facevo giocare e poi l'avrei fatto accomodare in panchina a Palermo tra qualche giorno. Mi sembrava più congeniale a lui la partita di ieri, perché sarebbe, questo parlo prima, non poi per come è andata, perché era abbastanza evidente che il Bayern non sarebbe arrivato a Roma a giocarsi la partita della vita, no? Essendo una partita platonica, avrebbe giocato una partita bella, elegante, sportiva, ma ovviamente senza troppo stracciarsi l'anima. Secondo me era la partita di Totti, e secondo me in quella prima mezz'ora in cui la Roma è andata sotto di brutto, c'è andata perché mancava l'uomo in grado di fare il trasformatore di qualità rispetto a tutta la fatica che facevano gli altri. C'è Marco in linea ancora da, e poi passiamo all'altro argomento subito dopo l'intervallo. C'è Marco in linea da Novara, buongiorno. Buongiorno. Sì. Sul Milan e Allegri. Non sono d'accordo su quello che ha detto lei prima, che il Milan troverà sicuramente una squadra più forte, tipo Madrid o Barcellona. Secondo me più o meno, come ha detto, vedremo a febbraio vedremo. E poi su Allegri. L'anno scorso quando era al Cagliari lo intervistava, chiamava Galeone, che era un fenomeno. Galeone, la interrompo un istante. Galeone era previsto per oggi, l'abbiamo appena chiamato per dirgli: caro Gale, rimandiamo a domani, perché oggi c'è questo caso che arriva da Madrid e di cui adesso ci occuperemo. Ma dicevo, l'anno scorso lei aveva intervistato Galeone per dire che praticamente era che sto su Allegri, che era un fenomeno, lo incensavate. Invece quest'anno, da buon comunista, visto che al Milan lo massacra. Arrivederci. Caro Marco, ha aperto l'impermeabile alla fine. Beh, ma è un classico dell'orrore questo. Allora senta, tra un bambino e l'altro che mi diverto a mangiare, come sa, no? È evidente. Io mi sforzo di coltivare qualche amicizia con le persone calcisticamente interessanti, ho detto calcisticamente, poi ce ne sono anche altre di amicizia evidentemente. Quella con Galeone lo è, e Allegri sono due anni, mi pare, no? che riscuotesse gradimento notevole. Per me lo riscuote anche quest'anno, perché l'operazione che ha fatto è stata un'operazione molto coraggiosa, perché lo diceva un ascoltatore prima, è chiaro che si è messo in una posizione difficile, che è quella di essere realista e andare contro la filosofia aziendale. Con un piccolo paradosso, non vorrei che il comunista fosse davvero Allegri, ma dato che non voglio il suo male, mi auguro proprio di no, perché sarebbe, come è noto, sarebbe un peccato mortale. 14:28 e 25 secondi, quindi i mercati. Mirko Capacci scrive da Arezzo: tutte le considerazioni che volevo fare sul Milan le ha fatte lei, beh, troppo buono. Che dire, la saluto dicendo magari che il buono di questo tipo di gioco del Milan è che è meno dispendioso, e con tutti quei vecchi che si ha, questa è la vera considerazione. Naturalmente, aggiunge ancora Mirko, quando riprenderemo sarà di nuovo colpa di Seedorf, perché questo è il trend, mi pare aver capito ascoltando il suo programma. Bentornato a Fabio Tavenni. Grazie Gigi, buongiorno. Buongiorno caro Fabio, oggi in veste ufficiale di Ministro degli Esteri, perché c'è questo caso Mourinho, questo caso Real, questo caso che secondo me diventerà un caso molto grosso e diventerà per l'UEFA un banco di prova serio. Non credo di esagerare. Ti leggo un passaggio, anzi la conclusione del fondo del direttore di AS, quotidiano sportivo prestigioso, quotidiano sportivo spagnolo, si chiama Alfredo Relaño, il direttore sportivo, e scrive: a Madrid eravamo felici ed è apparso Mourinho. Questo è il titolo dell'articolo. E poi scrive: non mi piace, mi dispiace, ma non mi piace. Capisco sia pratico e apprezzo la sua capacità di controllare tutto, però non coincide con la mia idea di sport, né con l'immagine che per tanti anni ha offerto il Real Madrid, soprattutto in Europa, ed è irrispettoso per questa fenomenale competizione, summa di calcio e di club, e mi dispiace infine anche per l'Ajax, squadra alla quale il calcio deve tantissimo. Allora Fabio, io prima di considerazioni ti chiederei, visto che l'hai fatto ieri sera per primo, l'ho ricordato in precedenza, ti chiederei di raccontare agli ascoltatori, che ovviamente non siamo una TV, quindi siamo una radio, di raccontare esattamente i fatti. Ma i fatti sono che nel corso della partita, che il Real Madrid ha dominato e ha largamente vinto, a un certo punto si alza Dudek, il secondo portiere, dalla panchina sul sul 4-0 per il Real. Il risultato era 0-4, e non mancava molto. Cioè, non mancava molto alla fine della partita. Il secondo portiere Dudek si alza dalla panchina e probabilmente istruito, e va verso Casillas, il portiere che stava giocando, e cominciano i due a far lottare vicino al palo. Casillas si avvicina anche a Sergio Ramos e poi il passaparola arriva fino a Xabi Alonso. Allora succede che Sergio Ramos e Xabi Alonso sono stati ammoniti nel corso della partita, e di fronte alla possibilità di essere nuovamente ammoniti e dunque di essere espulsi e dunque squalificati e di saltare la prossima partita, che sarà una partita platonica, inutile, certo, contro lo Serie, quindi di fatto azzerare la loro quota di ammonizioni, non rischiare più la squalifica evidentemente nella gara di ritorno degli ottavi di finale, dando per scontato che alla gara d'andata gli ottavi ci saranno, i due hanno pensato bene di farsi ammonire, di far finire la partita al Real Madrid in 9, e di farlo in una maniera ma neanche oratoriana, ma molto molto peggio, sì. Perché Xabi Alonso si è fatto ammonire per aver ritardato la battuta di un calcio di punizione a partita strafinita, già con le prime docce che stavano cominciando a partire negli spogliatoi. Fabio, data l'eccezionalità dell'evento, stamattina mi sono arreso a YouTube e ho contato i secondi. Xabi Alonso impiega 30 secondi spaccati per battere questa punizione, andando avanti e indietro al rallentatore per 4-5 volte, esatto. Sullo 0-4. E allora, e Sergio Ramos fa anche peggio, perché lì il 90esimo era già scaduto e Casillas finge di non poter battere un rinvio, va Sergio Ramos a battere il rinvio, si aggiusta i calzettoni, si aggiusta i pantaloncini, prova il rinvio, poi dice ma forse aspettiamo un attimo, insomma lo tenta e lo ritenta, sotto un Amsterdam Arena che lo ricopre di fischi e di bu, Suarez protesta, tutti protestano, ma in realtà non tanto per chiedere l'ammonizione, perché stiamo parlando di cose ridicole, era 0-4 al 90esimo, quanto per questa pantomima veramente io uso un termine forte, da poveretti, perché una squadra come il Real Madrid, che in questo momento se non è la più forte d'Europa è la seconda, che ricorre a mezzucci del genere per risparmiare due giocatori, per farsi squalificare apposta, per non rischiare poi, sono secondo me un segno di debolezza che in questo momento il Real Madrid non è giustificato, al di là della, secondo me, figuraccia che un club come il Real Madrid, ecco, non deve permettersi, da parte, aggiungo, perché il carico è da 11, da parte di due campioni del mondo, cioè una scena veramente patetica, al di là dell'antisportività, io la trovo veramente patetica, sì, ai confini del ridicolo. Sono due campioni del mondo, questa è certamente un aggravante. È un campione del mondo anche il mandante bis, e cioè Casillas, perché è Casillas che trasmette, sì, gli ordini. Non è ancora campione del mondo invece il mandante primo, e adesso arriviamo alla genesi di questa cosa e alle possibili conseguenze e sanzioni. Vorrei spendere una parola avendo debuttato praticamente quasi e avendo rivisto queste immagini non so quante volte, alla fine sono arrivato a pensare che Xabi Alonso e Sergio Ramos invece ne escono talmente male da uscirne paradossalmente bene, nel senso che hanno ricevuto l'ordine di essere antisportivi dalla loro panchina e sono talmente inadeguati a essere antisportivi che lo fanno come degli studentelli balbettanti, non so come dire, no? Cioè sono il figlio della mignotta, perché quello era il destinatario ideale di Mourinho ieri sera, no? Sulla furbata. Sì. Ma cosa faceva? Aspettava un avversario in corsa, lo prendeva per la maglia, possibilmente da dietro, così. Ah, non ma fa male. Rischiava anche il rosso diretto. Beh, poi, no, una trattenutina leggera. Ma non è matematico che t'ammoniscano, cioè sulla perdita di tempo tu sei abbastanza sicuro. Però Gigi, qui siamo al dottor Verdiglione, cioè sì, qui siamo, certo, davvero al lavaggio, certo, del cervello. Certo. Allora, usciamo da Verdiglione. Non importa se Xabi Alonso e Sergio Ramos sono stati più balbettanti o più involontariamente, appunto, puliti o coinvolti. Cioè, parliamo del mandante, ma soprattutto parliamo della figura che fa Real Madrid. Il Real Madrid, l'hai detto tu, no? Attualmente che cos'è? Però è anche il club leggermente più titolato del mondo, il club più, sì, prestigioso. C'è nella sua giunta direttiva, ed è il consigliere più ascoltato da Florentino Perez, di cui non conosco le qualità morali, ma c'è un uomo come Jorge Valdano che è il calcio signorile fatto persona in campo, da giocatore, da allenatore, da correggere. Il presidente onorario del Real Madrid si chiama Alfredo Di Stefano ed è un monumento alla storia del calcio. Ora io mi domando, ma questa gente, secondo te, persone di questo calibro, accetteranno questa figura è niente, come direbbero a Napoli, no? Fatta dal loro club per colpa di uno che qualcuno sui siti definisce un perfezionista, no? Beh, questo è un perfezionista delle figure di niente, però, no? E mi veniva un'altra parola anziché niente. In questo caso, accetteranno o meno? Prima domanda. Seconda, l'UEFA, che ha già aperto comunque un'indagine e che quindi si sta attivando in questo senso, l'UEFA lascerà passare impunita una cosa di questo genere o batterà un colpo? Guarda, sono importanti entrambi, credo, entrambe le cose. Io non so sinceramente che cosa succederà e non ce lo racconteranno mai. Credo che già comunque il rapporto tra l'allenatore e una parte del consiglio direttivo madridista si sia incrinato già quando Mourinho aveva pensato di andare ad allenare la nazionale portoghese per un paio di partite, sì. Già è successo uno scontro abbastanza forte che magari non è uscito tanto sui giornali tra Valdano e Mourinho, sì. E non c'è niente da fare, cioè loro hanno deciso di prendere José Mourinho perché José Mourinho garantisce una quota altissima di possibilità di vincere e con tutta probabilità vincerà qualcosa anche quest'anno. Quello che è successo è, molti mi hanno scritto, ma certamente scriveranno anche a te, ti staranno scrivendo dicendo ora basta con il perbenismo, insomma il calcio è così, e va bene tutto, non intendiamoci, gli omicidi sono una cosa diversa, non stiamo parlando di qualcosa, però la sensazione è che almeno l'UEFA debba mandare un segnale forte, che queste cose intanto non si fanno, che non ci si prende per il giro in questo modo, e che se, secondo me, la punizione migliore possibile era che, se volevano evitare di essere squalificati per una partita degli ottavi di finale, mica punizione seria è squalificarli proprio per gli ottavi di finale per comportamento antisportivo. Ecco, però la domanda finale, sì, è chiaro che se fossimo noi nella commissione disciplinare dell'UEFA sono almeno 3 giornate per Xabi, almeno 3 giornate per Sergio Ramos, almeno 2 per Casillas come messaggero, a parer mio, e poi da quantificare la squalifica alla panchina. È documentabile il fatto che l'ordine sia partito da Mourinho? Guarda, io questa immagine non l'ho vista. Questa immagine non l'ho vista, è possibile però che ci sia, nel senso che non escludo che ci sia, perché quando parte il portiere per andare a parlare con l'altro portiere è molto... Cioè, quando parte il portiere, tu intendi il portiere che è in panchina seduto... Dudek, cioè. E quando parte il portiere è evidentemente il messaggero di un messaggio che deve essere arrivato da qualcuno della struttura tecnica. Siccome José Mourinho controlla anche le foglie che cadono dagli alberi lì, il mandante morale, anche se non c'è un'immagine, ma secondo me poi salterà fuori, è certamente lui. Cioè, c'è già una TV olandese sostiene di avere un'immagine in cui Mourinho in inglese ordina a Xabi Alonso di farsi riammonire. È possibile, questo è possibile. Ripeto, i giocatori potrebbero anche evitare. Cioè, i giocatori hanno il pieno delle facoltà mentali e quindi certo, potrebbero anche deontologicamente non prestarsi a questi giochini. E evidentemente è talmente forte la personalità, il carisma e tutto quello che volete dell'allenatore, il quale davvero li teleguida, ed è veramente clamoroso che ci sia già riuscito dopo 4 mesi di lavoro. Questo è veramente un caso da studiare bene, perché è così, insomma. Ultimi 20 secondi di speranza per chi vorrebbe una squalifica esemplare per questa gente. Il precedente di Barcellona-Copenaghen di un mese fa. Ma al di là di io non lo so se possa arrivare o meno la squalifica. Trovo che più oltre alla squalifica di campo, intendiamoci, il Real Madrid potrebbe giocare un ottavo di finale facile contro, che ne so, l'Olympique di Marsiglia e vincere altrettanto facilmente come sta vincendo in questo momento. Cioè, a parer mio è la squalifica morale quella che in questo momento al Real Madrid fa e farebbe più male, perché il Real Madrid si basa anche su un'immagine, il Real Madrid è un marchio, in questo momento è l'ufficio marketing soprattutto del Real Madrid, oltre che la saeta rubia, evidentemente anche Valdano o Florentino Perez ad aver incassato il danno. Però è un danno d'immagine, è un danno, molto grave. È un danno sul marchio che è gravissimo. Il Real Madrid, ripeto, io ho detto sono dei poveretti, nel senso che sono mezzucci davvero, ma da squadra di paese, non da Real Madrid. Certo. Fabio, io ti ringrazio per questo collegamento ampiamente documentato. Non escludo che domani ci risentiremo, ti convoco sin da ora, perché intanto ci sarà un bilancio tecnico, ma sono abbastanza certo che da qui a domani ne sapremo di più sulle intenzioni dell'UEFA, ma anche sulle intenzioni del Real, a parer mio. Non credo di sbagliare. Buon pomeriggio. A domani. E buon traffico a chi adesso si sente come sta andando su strade e autostrade. E Franco Piantanini ha scovato un precedente, che è il seguente: Juninho e Chris del Lyon nel 2008, in una edizione del 2008 del Champions League, forzarono la seconda ammonizione in una partita contro la Fiorentina, che era la quinta partita del girone, esattamente come questa, per saltare il Bayern, successivamente arrivare vergini agli ottavi. La sanzione fu di 10.000 euro a testa di multa, però bisogna sempre vedere le modalità. Sto facendo una percentuale a, certamente non è un sondaggio, è una percentuale a occhio di tutti i messaggi arrivati sul display sull'argomento, non riesco nemmeno a contarli, quindi figuratevi se riesco a leggerli tutti, ma così, cercando di intuire i pro e i contro, mi pare che i contro, cioè i favorevoli alla furbata di Mourinho, non certo del Real, perché non voglio mancare di rispetto al Real, il Real è vittima in questa vicenda per il mio, i favorevoli sono, diciamo, un 10% a essere larghi. A questo 10% di perfezionista, ma siete ipocriti, ma lo fanno tutti, e ho praticamente finito i messaggi o poco più, io rivolgo un invito soltanto, che è quello di vedere le immagini prima vedere e poi parlare, nel senso che provate a calcolare cosa sono 30 secondi di tempo e pensate state giocando all'Ajax, all'Arena, all'Amsterdam Arena, insomma, lo stadio dell'Ajax, che tra l'altro è uno stadio che merita rispetto, no? Anche perché è stata una delle culle del calcio moderno, perlomeno del dopoguerra. In campo ci sono le camisetas blancas del Real de Madrid, che stanno vincendo per 4-0, mancano pochi minuti alla fine e un giocatore palesemente imbeccato dalla panchina ci mette 30 secondi per battere un calcio di punizione, mentre gli altri nemmeno protestano, semplicemente lo sta guardando e si dice: ma cosa sta facendo? L'arbitro a sua volta, che non è inquadrato, ma insomma, se tarda 30 secondi a intervenire e ad ammonire, significa che ha capito la manfrina, no? E quindi sta dicendo: ma dai, però non costringermi, cioè non mettere anche me nelle condizioni di fare la brutta figura. No, perché evidentemente quando parla, cioè, è pazzesco una cosa del genere. Antonio, chiamato da Como, buongiorno. Pronto? Antonio, dica. Sì, buongiorno Granzini. Io sì, volevo ricordare, non a lei perché l'aveva detto lei, che 2 anni fa quando era arrivato per radio lei l'aveva detto: questo è un personaggio così, ed è vero. Comunque io mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico. Mourinho è un caino, io sono tifoso in pista. Pensavo anche peggio, Antonio, sinceramente. No, quando perché, detto guardi, così, il fatto che un comandante di una nave la porta in un po' a buon porto, perché l'ha portata a vincere tutto quello che ha vinto, e poi la lascia prima di entrare in porto, la lascia fuori dal porto e sull'altra nave. Questa del porto, io non so cosa fanno i caini di mestiere, se hanno questo import e sport tra porti, per l'appunto, però sinceramente non importa, il concetto era abbastanza chiaro, come è chiarissimo Roberto, che scrive: Mourinho vince, il resto sono chiacchiere. E infatti queste sono chiacchiere, io spero diventino squalifiche, perché l'ho detto 2 anni fa, perché con questa gente è difficile sbagliare dopo tanti anni di esperienza, di comunanza. Questi sono quelli rarissimi, per fortuna, per la verità, ma sono quelli che avvelenano i pozzi, e quelli che avvelenano i pozzi sono i più pericolosi di tutti, a maggior ragione se sono bravi, anzi bravissimi come tecnici, come è Mourinho. Luciano da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo invece esprimere un parere su Mourinho, spezzando una lancia per lui. Nel senso, non è stato piuttosto ingenuo a fare una cosa del genere? Non avrebbe fatto meglio a prepararla, magari durante il può essere il primo e il secondo tempo, a prepararla e poi, cioè, penso che un altro abbia già pensato a fare una cosa, non credo che sia il primo. No, ma queste cose non in quella misura, no, soprattutto non in quella forma ripugnante, queste cose accadono, fanno parte del un giocatore sa quando è diffidato e sa che se la partita dopo gioca in casa con gli ultimi della pista, farsi ammonire non è una bruttissima idea. Ci sono giocatori che alla penultima partita prima di Natale, ma sa quanti ce n'è, provi a dare un'occhiata anche quest'anno. Quando è il penultimo turno prima di Natale? È la domenica tipo il 13, 12, questa domenica? Dia un'occhiata alle ammonizioni, ma non da un punto di vista arbitrale, lo dico dal punto di vista dei giocatori. Dia un'occhiata, vedrà che ci sarà qualche strana trattenuta, qualche sgambetto che non ha molto senso, eccetera. Ma questo fa parte, questi sono problemi individuali. Questo è dalla panchina del Real de Madrid, che è il più grande club del mondo, parte l'ordine a 4 minuti dalla fine di farsi ammonire ad ogni costo a 2 giocatori che sono campioni del mondo. E questi, che non sono che cascano dalle nuvole, la fanno in una maniera così penosa da rendere il tutto ancora più incredibile. Luciano, guardi le immagini di Areta Me e poi ne riparliamo. Tanto questo è un argomento che terrà banco per un bel po', perché è un punto di svolta, io credo, per il calcio. Carlo ha chiamato da Venezia, buongiorno. Sì, salve Garazzini, sono Carlo. Allora, a me risulta che sono stati espulsi per doppia ammonizione, giusto? Sì, certo. Ma la doppia ammonizione, il prossimo turno praticamente sono da anche dei fessacchiotti, no? Perché se li lasciavano fuori la partita, la prossima partita, non scottavano la giornata. Così. No, è diverso il regolamento, Carlo. Quest'anno l'UEFA l'ha cambiato, e l'ha cambiato in peggio, secondo me, perché la squalifica scatta, cioè se uno sconta la squalifica e nella prossima partita loro la scontano volentieri ovviamente perché giocano una partita platonica, si riparte non più con la fedina immacolata, ma si riparte con una ammonizione sul groppone, e quindi vuol dire che ce ne sono due, visto che da quest'anno si è squalificati con tre per cumulo, ce ne sono due di bonus. Facciamo in tempo a sentire Nicola Filippone. Sì, hai 100 all'ora. Sembra ieri. 24 novembre 1968. La Fiorentina di Bruno Pesaola si impone per 2-1 a San Siro in casa dell'Inter. Il doppio vantaggio viola porta le firme di Chiaruggi e Amarildo, quindi Domenghini accorcia le distanze per i nerazzurri. La vittoria esterna a Milano rappresenta la svolta nella stagione dei viola, che dimostrano così di avere fondate ambizioni. Perderanno per un soffio il titolo di campioni d'inverno a beneficio del Cagliari, l'altra outsider del torneo, ma in primavera prenderanno il largo, conquistando il secondo scudetto della loro storia dopo quello del 56. Grazie Nicola, siamo in leggero ritardo, ma questo messaggio di Cristian da Modena è imperdibile, perché ricorda che Mondonico, da ragazzo, aveva 19 anni e giocava nel Torino, si fece espellere per andare a vedere i Beatles. Era il primo concerto dei Beatles in Italia. Viva Mondonico, a basso Xabi Alonso e Sergio Ramos, e viva ovviamente anche i Beatles. Grazie a Roberto Scantriti in regia, a Franco Piantanini in redazione. Buon pomeriggio a tutti, a domani.